giorno un grande esploratore là nell'Equator. Intorno radunate le tribù, ai negri disse così: voi non state troppo bene qua, molto meglio è la città. Seguitemi su, ma un vecchio negro disse allora: oh, bongo, bongo, bongo, stare bene sulla Congo, non mi muovo, no, no, no, no, no. Bingo, bango, vengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. What? Non buono, scarpe strette, saponette, treni e tassi, treni e tassi. Ma con questa sveglia al collo, sto bene qui. Paziente, il grande esploratore ad ognun parlò. Dei quadri futuristi dello swing, la nostra moda spiegò. Soli, soli che ci fate qui, io vi mostrerò Parì. Seguitemi su, ma il vecchio negro disse ancora: oh, bongo, bongo, bongo, stare bene sulla Congo, non mi muovo, no, no, no, no, no, no. Bingo, bango, vengo, molte scuse, ma non vengo, io rimango qui. Non buono radio e cine, signorine, madre così, madre così. Molto meglio nella naso, ma stare qui. Rimanere con gli Zulu, ma impazzire tra voi laggiù, non sono scemo, star bene qui.